di morti per colpa sua, brutto pagliaccio, perché era pagliaccio me, l'hanno buttato, era un comico, la massa gliene varia, avanti a tu, Tonio, Romoli, tu ce l'hai pucciato, riprenderò bene. Passate le moccioline, non potete dire. Ma grazie, vabbè. E più dirà che ha furato, si sarà pucciato, si è fatto un esercito. Va bene, Tunisia. È tutto un casino comunque. Oh, il governo, è un casino, casino, casino. Io Roberto ho detto che il mio coso è l'altro anno, piano piano, io me ne voglio andare a Tenerife, per sempre però. Lì con la mia pensione vivo da re, perché dormo in albergo, mangio in ristorante e mi avanza le burutinate. Non è come Tinocchi. Là non paghi tutta questa IVA che paghi qua, che è una vergogna. Ma ti pare una pizza 8 euro, che sono 16 mila franchi. Io una volta, pulendo una cantina, ho trovato un foglietto del Rendezvous pizzeria, due pizze, due Coca-Cola, l'acqua, 7.500 lire. 7.500 lire, che equivalgono a 3 euro e spiccioli di adesso. Oggi con 3 euro manco una pizza di altri. Ma stiamo scherzando? Ah, io che esagerato, dai. Ma il governo, questo sta coprendo per lo prende a punta, in modo che distruggano quanto c'è e rimangano solo le persone di panificinato, proprio sottometterti alle petizioni. No, ma l'ho messo, e poi cade anche il lavoro, cade tutto, di là il governo non entra di più, il governo cade automaticamente. E tu sei uno che va di là, e cosa fa quando va di là? L'operaio non viene più a lavorare al supermercato, cos'è? Il riccone padrone apre il supermercato e serve lui, ma lo si intende. Tutta loro, poi Ciccio Landini, parliamo sul sindacato CGL, Landini, Puccinucci lo veglia, caso strano il sciopero le fasse per fine settimana, il sabato, perché non lo fai un bel sciopero di 2-3 giorni dal lunedì, martedì e mercoledì? Perché d'accordo col governo anche lui. Sai cosa vuol dire se chiudono tutte le serrande per 2-3 giorni l'Italia, tutta l'Italia? Vuol dire che il governo perde miliardi, ma non lo faranno mai perché questo sindacato è d'accordo col governo. La massa gliene varia. E per un ragno, guarda, è un Spiderman quello lì. Avanti a tu, Antonio sta combattendo con il figlio. Ti ho rinunciato, ho detto c'è sfruttato per il figlio. Capito. Oh, non è entrato nessuno ancora, bubù. Poi vanno a dire cosa c'è da fare, baracchi, non c'è nessuno, accende, non c'è nessuno, faccia. E se tu non provi a entrare, già ma come ti ha fatto Natalino, è andata le mani. Attenzione che non è fantasma, sono entrato, ecco a me, guarda fantasma. E me lo metto su Spider-Man, fatto fuori. Oh, mica la c'è a mano, veleno se non ne abbiamo noi, dai. Io purtroppo roba gasata non le posso più. Niente, troppa roba dolce, non li posso bere, c'è la biglia luce, acqua naturale, vabbè, però ogni tanto lo schiaffo al gelato glielo do. Almeno un gusto, mi do un gusto che ci do malanni, cos'è? A vera volta vediamo col gelato. Aspetta due minuti che esco fuori e col telecomando devo accendere qualche faretto a panetta. pannello solare, perché forse ho toccato qualche cosa, due sono accesi e anche due no. Un attimino. Ne ho approfittato, ci siamo con l'estendino con la roba fuori, che era già uscita, me la sono ritirata. E cos'è questo casino? Sì, rumore. Niente, i fari erano tutte e quattro accesi, meno male. Anto, se sei tu stai uscendo ben male, eh? Non si capisce nulla. Antonio, tu sì. Tutto chiasso e voce zero. Lo metto l'intelli. Sì, lo sento, perfetto, però è qualche da un po', sembra un po' come calcio sparato. E c'è del facciamo il casino, boh. Abbassa volume, Antonio. Poi viene pieno drago, vasi. A far scopo la pazzia. Ci diciamo quanto ci cazzava. Non metti mai recite così male a tu. Come così male? Lo fa tutto gracchiante, un casino. Oh? Sì, povero Marcone, però ci manca, eh. Manca sì. Vabbè, comunque è sempre lo stesso, eh. È ingrassato, poi vecchiato, ma è sempre lui. Dai giorni Giuseppe Maria, secca la gamba la chicchia. E vabbè ci cazzavo delle vesti a Miero. Vai, grazie, tu c'è un po' di polvere di marmo, di zia. Mangi un brudino di marmo. Adesso quanto ci cazzava. Il bello cosa cos'era poi, vabbè. E sotto Falcone ci abitava Maddalena Cassano, che era allora la ragazza di mia cugina, c'era moglie. E infatti mia cugina diceva, Tony, ma cosa ci ti fede se muove di calciare? Ma di mozzi si intende, pizza in occhiosso. E tu non sono io, no, che lo fai cazzare. E mio zio. Ma che era pinguino? Ah. Poi c'era anche il Re 20, un tassista che prima aveva il mar, poi ci ha fatto lo taxi, non so che fine abbia fatto, boh. Ma qui a Filarino? No, Antonio Re 20 aveva il mare via San Elisabetta, poi ci ha mollato lo mare, ci ha fatto lo taxi e poi non ha più visto il Parigi. Ah, ti ho capito. Non ho più visto che fine ha fatto. Poi è morto un carissimo amico che abitava via Madalena, tassista anche lui. E aveva l'anemia mediterranea, però si pensava che continuava tranquillamente perché aveva già una certa età, invece poi è molto poveraccio, un pezzo di mani, acchio ragno. E non c'è evitato niente questa malattia. Beh, lo so. C'era una cugina che era così. Purtroppo sono malattie che non perdonano, è come la leucemia lo stesso, la leucemia è un casino, e quel male è il sangue, è una zia mia buccia, così puro. E allora, prima era più naturale, prima stavamo, eravamo poveri ma stavamo bene. Ava, la niente, c'è Zimiglio e siamo mari. La Romagna non è più come te la voce. Viene di Bucaria, eh. E attenzione a tu, quando mi rubano la minestra, lì c'è quella farina di grillo. Andando per ciappare, metti la pugna. Oh, hai visto, ho visto su internet come fanno il kebab. Cani, gatti, tutti mazzinati, fatta a poltiglia, misciando, aromi, eccetera, mettere in mezzo e fare il kebab. Che schifo, ma mai non ci mangiare, mai mangiarò. Ma ti canto passo in via Mentola, per un fiacco, non si può già. E che cosa avevi in via Mentola? Tutto del kebab. Ma come io passo in macchina, non ti nulla? La pura si intende, non fiacco. niente di sugar. Io c'ho un video che guarda, vabbè, ce lo vedi, fate schifo, per carità. Ma signore indiani non sono schifosi, ma niente. No, non la giovane vice di Arema, niente. E i miei cuori ce lo vedili. Sì. No, non la guardi mai di vedere chissà cosa, che ci vedo io. Cioè, fate chi fosse. Di più? Mamma mia. No, no, no, no. No, va bene che verrà che su buon ristorante andrà lì, era Robè. Come si chiama il ristorante? Zia Maria. Che mira le cani. Serena, piccate. Perché è da che schifo. Da Gito, io qui il pollo lo conosco. Lo cucinai giù io e ciccia. Poi io ho visto un locale che aveva un amico mio che aveva il ristorante. Infatti ecco perché il ristorante non ci vado mai. Ma tu ti merco dove vai al ristorante e tutto ciò che tu chi la magna lo faceva a te domani. Quando rientravano i camerieri con dentro la cucina una roba avanzata, loro guardavano quelle che non si vedeva dove era toccata, ma sia tutto, non solo carne, melanzani o di tutto, quello riciclato alla cliente. Che schifo! Ma lo dice che lo fanno quasi tutti, così l'ho detto a casa io, ma dopo non ti fa la vagogna, e se la pizza, ma cosa la pizza? Ma ti pare devo sempre cucinare? Io dici io ci rimetto la tasca poi, facciamo tutti così, bravi zitti. E infatti quello sì non campa molto, infatti. Anto, o mai niente, se arricchete così, con la scusa che l'aumento, aumento, aumento, aumento, poi Edo ricicla tutto. Uiaia, mercalità, guarda, non sole sì e non viene giù, che mangiare giù, le 4:30 ci viene preso, ed erano le 3:30, ha già fatto colazione, che schifo, che avesse dimenticato, che era un'ora indietro l'orologio. Cammina già la giura? A me il giro era nato per imparare almeno. E allora Robinson. Tu vedi la gente di elettronica? No, e tu vedi giuro? Elettronica, ma elettronica di tutto. Aspetta, io ho preso un orologio che fa da tutto, fa da telefono, fa da di quelli swatch, però bisogna fare qualche procedura che non riesce a farla. A Carrefour l'hai preso 7,25 euro. Non c'è uno, l'unico che è rimasto l'ho preso io, che sono andato a rimanere a pigliarlo, era da 28 al 30, invece il 29 non veniva più quasi, fatto conto. E non riesco a l'ho caricato Robè, però l'unica non ci riesco. Ma bisogna scaricare l'app oppure non so, boh, il wifi con un telefonino e non ci ho preso nulla, boh. Collegare sicuramente al posto, non ce l'hai con l'internet? Sì, io c'ho l'internet a casa. Sì, ma non ho preso, non riesco a trovarlo col telefonino, il l'orologio. E io quei passaggi non riesco a fare, no, a me alle G mi ero per i cattoli. Non da fare. Chi è che l'ha fatto a te? E allora lo posso fare io, lo mio, che è un casino, non riesco più a fare nulla io. io ho anche la telecamera, vuole anche fatta quella lì, non ci riesco, cazzo, boh. Infatti c'ho una carissima amica che lo fa, però se mi trova dietro nelle simulazioni, cazzo, casino. Cavuzza, pollo con patate, cazzo, le patate e carboidrati, già va al balzone e continua a ingrassare, boh. Oi, oi, oi, Antonio riprendi, ma cosa sono andato in tutti i luoghi, ho scaricato anche l'app, tutto, boh. È un casino. Uno swatch, come si chiama? Ma Romè, boh. E dove si mette? Boh. Ma bisogna vedere, non lo conosco, tu pensi che non sapevo neanche come si caricava, guarda come se mi, e devo togliere la cinghietta e infizzarlo, le cose per caricare il telefonino. La scheda dove va? Boh. All'interno da sotto? E dopo lo riguardo. Scusa, è una scheda date ci va. Una scheda date, oppure una scheda proprio di telefono, questa qua. Lo so, ma io faccio la scheda del telefono mio, non mica la buca ma a pulirla anch'io, non so come ancora. Ah, vabbè. Oh, yeah. Casina, cosa mangio? Boh, non voglio la pizza e il video. Io è tanto che amo la pizza, boh. A me piace, boh, la pizza che mi fa sbio un me, capere e ciue, troppo mi piace. E mangia la pizza, tu. Ti grido. E a te a tua, ti piace il capere e ciue? Certo che mi piace, qualche volta la mangio. Ciao Antoni! Ciao Antu! Ciao Natalino! Mangia la pizza, mangia! Tu se vieni di mangiare pizza, non lo so io. Non è vero, questo non lo puoi dire. La mangio una volta ogni tanto io. Aspetta Sari, ti mando avanti un amico, se lo senti che c'è l'antenino. Avanti Robè per Natalino. Eia, io che lo senti, a me non sta arrivando molto molto bene, a me magari non mi senti. Già ti sento Roberto, ti sento. Va bene allora, dai. E comunque domani ti do il mazzucca, così spari. Ma la metti in alto dovrebbe arrendere. Non c'è un posto per metterla su. Chi che c'ha il posto? Io metti un po' di palo, ci metti. Ero da posto. Perché un palo. E un poco 30 rubetta. E la solleviamo di voi. 10 metri 12. Natalino, sai da che ora vediamo la in baracchino? Ma nessuno è entrato qua. Ma io ho acceso adesso perché me ne sono alzato adesso. Mi sono addormentato, sono crollato e mi sono svegliato poco fa. Si è riposato. Vuol dire che il corpo tuo aveva bisogno di riposarti. Sì, non sto dormendo bene la notte, non tu. Perché Natali? Ma che ne so. Che cos'è saboroso? Sì, a casino. Troppo alto, sì. Non si capisce nulla. Banda laterale è questo. Magari, boh. E che ne so. Io mi emoziono. Ah, Maria Antonio. Ma adesso sto uscendo, 1, 2, 3, prova. Adesso sì. Fabrizio. Che strano. 1, 2, 3, prova. Come la radio? Buona? È ottima, forte. Ciao Fabrizio, comunque, Torino a Cavazzacca da questa parte. Ma prima ieri, non so se è rimandata la terra, scopri di nuda. Ciao Fabri, buonasera. Forse hai sbagliato un po', magari la regolazione. Ciao, buonasera, molto coerente. Vedi un attimo, no, sto provando, sto rimontando un attimino la sala radio. E sto provando la 27. Aspetta, ma c'è un po' di potenza. Come era? Ecco, adesso però non so se sono l'MC60, forse non è preamplificato così. È forte come radio comunque. È preamplificato, Fabri, qua a fondo scala. Aspetta, Natalia, aspetta, ma il micro MC60 come funziona? Aspetta, ce l'ho fermo più di un anno. E così sono in amplificazione, aspetta che provo a mettere in... Ecco qua, aspetta che sto provando ad abbassare. Dai che do una regolatina, poi va un po' meglio. Sì, che apparato è quello? È il 440 che ho rimontato. Se a uno lo devi mettere in macchinino, se no altrimenti non si capisce nulla. Ma adesso come ti sembra la radio? Buona o troppo amplificata? È molto amplificata, eh. Adesso ho abbassato un pochettino, come... no, così forse è troppo, lo vedo dal... Così penso che dovrebbe andare meglio, no? Lascialo così che è perfetto. Perfetto, Fabri. Lascialo così. Quindi, salite, aumento un po' qua. E lo lascio così, dai. Ehi, adesso è giusto. Provando un po' tutto. Sono una settimana qua dentro, rimontando un po' tutte le radio. E sto provando la 27. Adesso vi faccio un paio di passaggi col baracchino, però, che ho montato. Aspetta che giro, là. Molto forte entrare quando. Natalia, ti sei migliorato qualcosa? Prova. Come tre prova? 9,25, quasi 9,30, sì. Già, va bene, dai. Ecco, vediamo adesso se sto uscendo con questo baracchino. Sempre bene. Questo è quello che avevo modificato, era un anno fermo, il 48. Va benissimo anche questo. Va bene, adesso devo provare il blu, il Galaxy, che ce l'ho collegato, però non c'è microfono, non so che microfono c'è. Aspetta che do un'occhiata se becco un microfono da tavola. Fabri, c'è una bella posizione anche tu, un bel palazzo, quindi qua arrivi fortissimo. Io sono fuori sassa, io sono a San Camillo. Lo so dove sei, io diciamo che però comunque la mia... come si dice? L'antenna è bassa, E io come ti arrivo là, Fabri? Col baracchino, poi ti do un controllo con l'altro, comunque molto bene. Fica, grazie. Aspetta, faccio una prova, un attimino, si aumenta, aspetta. 1, 2, 3, prova, come ti sembra, si è aumentata? 9,25. Aspetta, dimmi se distorce ancora. Ecco, così altre due tacche. Ottimo, sempre buona la radio. Così sono il massimo della potenza. Vediamo se distorce. Oh, ma si è abbassato molto il radio. Così va meglio, vero? 1, 2, 3, prova. Sì, così va meglio. Questa è la RAN 48 con il modello 500, così l'ho riparato, non me lo ricordo nemmeno. C'è un po' di saturazione, poco a poco, ma c'è. Considera che sto uscendo con un bel feedback. Si sente. Adesso, vabbè, vi lascio, dai, provo a trovare un microfono per uscire con Galaxy, per vedere com'è, che l'avevo riparato, lo stesso l'ho montato, dovrebbe andare. Questo Galaxy di chi? Vendendo lo sa. No, il mio, non so nemmeno da che parte l'avevo recuperato, l'avevo messo a posto, non me lo ricordo, secondo te un anno e mezzo, due anni fa, secondo te me lo posso ricordare, due anni fa. Beh, non lo vendi. Non vendo niente, non vendo niente. Ok, vabbè, dai, io ho sparato poi. Aspetta un attimino, dai, continua, che cerco un microfono, vediamo un po' se riesco a uscire con quello, dove trovo il microfono del Galaxy. D'accordo, avanti, vabbè. È una bella zona lui, quindi più o meno nei paraggi dove c'è l'agenzia, più o meno, un po' più su lui, è una bella zona, sì. Io che sono, no, io e tu siamo nella zona un po' più lontanuccio di Sassari, comunque già ci facciamo sentire, dai. Avanti, Natali. Che ne sono? Sì, un quarto, cioè già. Natali, io sento più la televisione, tua moglie. E lo so, se la metti alta, cosa più su vai? Ah, non Infatti non mi piace neanche modulare quando c'è lì e la televisione accesa. Allora dovresti fare una cosa, ti metti le cuffie e ti metti il mic normale, perché l'amplificatore accoglie tutto e quindi a te ti sentiamo di meno. Lei c'ha la voce più fine e più forte. Prova Fabrizio. Scendo di radio, dai. E adesso scarica di nuovo, sto scendendo in radio. Radio zero, finale. E forse contate bisogna controllare, dai. Natalino. Sì, dimmi. Riprenditela. Abbassata la radio adesso. Adesso sei protolella. Adesso sì. Protolella. Yeah. Ma com'è non venito? Sempre Fabrizio Robessa. No, sono io. California, controllo, provate per cortesia. Ciao Antonio, ciao Tonino e ciao Natalino. Ah, ciao Franco, a me cosa che trovo ti devo dare? Mi si barre di tutto. No, sono in macchina, sono qua vicino al semaforo di Coso, dai, di via Pascoli. Mi ascoltate bene, sì? Bene, via Pascoli, al semaforo. Io gioco un tiro in schioppa, io vorrei in fotoscala qua. Fotoscala anche qua. Papa, Natalia, da te com'è? Cambio. Non si intendi. Sto provando con l'antenna là, dai. Va bene comunque, ok, dai, riprendo dopo, ciao. Grazie. Aspetta, ma vai dimmi la benzina mia, sai che ti saluto uno. Cosa, Tony? Ho detto, andatini da vicino, sai che c'è un fumo e fermo un mamma. Oh, grazie, mi lei a Roberto. No, qua c'è Fabrizio, sta provando. Va bene, prendo dopo, grazie, dai, ciao Tonino, a dopo, ciao a tutti. Ciao Fra, siamo andati avanti Roberto, se lo sentivi Franco? Non lo so se lo sento. Avanti Roberto. Sì, no, ma è qualcuno, ma da pazzo. Non so se mi ascolta a me Roberto. Ok, dai. Sì, ti ascolta forte a te Fra. Fabrizio, se sei tu non sei uscito in radio. No, non era lui, no. No, perché sai tu che provavo un microfono che era ben fermo, capito? Del Galaxy. Sì, ma con l'ultima volta non era lui perché qua mi arrivano per 30. Forse questo sta uscendo però, questo è il suo originale. Sì, qua sta uscendo. Buonasera. Uno da tavolo qua ce ne vorrebbe, però bene o male sta andando, 1, 2, 3, però come la radio? Occupa, ma è ultima 5. Vabbè, questo è il suo, credo che sia il suo Galaxy, quindi sarà il suo microfono originale. Un po' di scariche, Fabri, controllo bene quel microfono. Roba B. Silenzioso. Gino. Ui. Riprenditi. Stamattina ho collegato la Polonia. Allora sei diventato polacco. Sì. Bravo Delta 705, Martin, Polonia. Alle 11.40. E allora ti devi comprare le scarpe polacchine e l'acqua di Polonia. Ce le ho. Andava. E propagazione c'è la mattina pure. E non c'è raro che l'accende la mattina, con tutte le cose che devo fare. Stamattina mi ha fregato l'orario, ho andata lì. Dalle 4:30 a me, forse con la zio, invece sono le 3:30. Non c'era più sonno. E io tutta la notte senza dormire. Mi sono addormentato dopo pranzo e me ne sono alzato poco fa. insieme per il problema delle gambe. Come? Il problema per le gambe. No, il problema per le gambe. Ma allora, si devo riuscire a farmi la visita con un chirurgo vascolare, perché quelli là non possono fare niente perché non dipende dalle gambe, dice. E cosa dipende allora? E c'ho un aneurisma surrenale io. Bisogna che parli con un chirurgo vascolare, che mi faccia una visita a questo chirurgo vascolare, però non c'è disponibilità. Sto chiudendo il telefono e andiamo al gruppo, da domani devo cominciare a tornare a telefonare, perché l'impegnativa vale 10 giorni, poi scade e me la devo far rifare, è un casotto. Perché ho fatto l'angiotac, ho fatto, e quelle chirurghe mi hanno detto che non dipende dalle gambe, dipende dal ventre, da lì dipende, da dove c'ho quell'aneurisma sicuramente. Mancando mai che non vedo un cosa, mi ha fatto la visita, non c'è posto, a me fa la visita ma a gennaio, a massa gliene varia, è un casino, siamo in Italia. Ma cosa vuoi che ti dica, Pionizio? Una ghilla delle tonelli, una settimana, ragazzi. Addirittura uno mi ha risposto, come mi ha detto, mi dica il nome, gli ho detto il nome, bim, e ha sganciato. Dimmi tu, e torna a telefonare per potermi collegare, un casotto. Me la posso immaginare. Io mi sa che mi telefono adesso domani, c'è un posto molto prima di gennaio. Vediamo un po' se c'è. Me lo faccio dare, se no pazienza. Perché non c'era posto, niente, per tutto l'anno, anche l'altro anno, vedo niente, non vedeva nulla. Ho fatto 10 telefonate dopo tanto, che dice, me ne pote, mi dice, guarda, ho un posto verso Porto Torres il 15 gennaio. E vabbè, mi metta in mezzo, dai. Adesso però se lo trovo che prima è meglio. Anche se siete etica, fa cavallo e si cresce. Ma se era una vita più urgente. Io devo fare anche un elettrofotogramma. Chi so, mi sembra che lo devo fare nel 2048. Ma la bottiglia è un macello, questa sanità sta andando allo sfascio. Bella rossa, domani mattina in capannone, yuhuu! A trovaglia! Eia! Ho contento per te, meglio così. Ma secondo me vuole qualcosa, molle. Strano. Sì, quando arriva è tutto buono. Ma a finire che mi dicono che dobbiamo mettere a posto, perché dobbiamo a capodanno dobbiamo andare a fare o zucchero o cosa, Ligabue. Ligabue? E certo, Aghero. E poi che si travaglia tu. Robè. A me non esce di nuda, di travagliucci, o idrico, elettrico, nuda, proprio zero l'ansia. Ma a me da quando abito in questo buco è un casino, ca. Invece essendo in città è prima mi scemi travagli, ca. È un casino. Oppure quando stavo lavorando, perché giravo di più con la macchina aziendale, una parte all'altra, parlavo con bene, professoresse, era diverso più il contatto, invece là. Oh. Sonino, ma la ciccia l'hai? La? La ciccia l'hai. No, ho la B e bu, A e B. Se no, che sanno, avete travagliato. Ma non so se mi farò lavorare, io ho 69 anni, mi attuvo. Ma lo sape, tra chi Peppino non ha 70 di travagliato. Sì, ma non mi devono assicurare, però, io sono già pensionato. Ma lo si intende, il burguetto, ma la stagione si può tenere i soldi a casa. Ma la metà, il burguetto vorrebbe a cosa? Io se lo trovo in nero entro subito, non me ne appunto in nulla. Guarda, qualche giornata te l'avrei fatta fare anche. Se ti capita qualcosa, ben venga, subitica, non so. Però da noi, il lavoro che facciamo noi lo vogliamo assicurare. Io purtroppo non posso, anche se io me ne capo, non me ne direi buttare la pensione, capito? Non so, no, fighetti. Lo so. Se ci avreste avuto la C qualche viaggio te l'avresti fatto. Beh, senza ombra di dubbio. No, ma non so, la B mi sono preso 49 anni fa, quindi. Allora faccio 50 anni patente. a quei tempi mi serviva solo la B e B, e mi hanno dato l'A e la B perché era molto superiore alla B, capito? Brecco di brecco. Ma quale? Adesso sto provando il Tarner più 3 sul Galaxy, come sto uscendo? Stesso in effetto cattedrale. Le va a abbassare un pochettino? Si abbassa Fabrizio. Allora, così va abbassato un po', le va a abbassare ancora un pochettino? Ma si è un po' metallico però, eh. Aspetta, abbassa anche dal Mickey Gain. Adesso 1, 2, 3 prova, come ti sembra la radio? Questo è il microfono. Per me adesso va benissimo, è perfetta come radio. E allora lascio questo microfono, dai. Devo solo mettere una batteria, perché lo sto alimentando con l'alimentatore da banco, da laboratorio. Va bene, dai, vi ascolto e proseguo qua a sistemare un po' tutto. Grazie mille e dopo tanto un abbraccio, perché soltanto non vi sento. Sto iniziando a rimontare un po' tutte le apparecchiature, le antenne, ne devo un anno senza niente, e quindi sto piano piano, adesso mi cercherò di farmi due chiacchiere, dai, buona domenica. Ok, fatti sentire più spesso Fabri, ci fa piacere, ok. Mi hai sentito, Monco Rix, ci sentiamo le prossime quando vuoi, noi siamo qua. Avanti Natali. Bianco per me. Ok. Ciao Fabri, alle prossime, fatti sentire più spesso. Adesso l'ho messa sul petto l'antenna, penso che ti arrivo meglio. Allora ci aspetto. Roberto. Hai visto quante cose il baracchino, eh? Ti passano le ore, ma te ne accorgi, vai da musato, vuoi da un pezzo di giubbotto di un pezzo di gaggio, una tazza di vino e via. Io da poco mi ha giubbato, allora, e pasta, gli italiani rigati, poi fagioli, lenticchie, e ho preso due patate, le ho fatte a pezzi piccoli piccoli, che sono qualche cosa, si è anche sciolta, ha fatto un sugo così denso, ma così buona, l'avevo fatta in mezzogiorno, ma ci ho mangiato anche la notte, ma ti dirò un bombo. Che schifo, ci ho messo anche quattro foglie di alloro e mi ha dato quel sapore, perché poi l'alloro sappi bene che fa benissimo al nostro corpo umano, fa molto bene, c'ha un bel di cose. Comunque ripeto, un domani me lo posso dorra e... e so pure sì, me la faccio con lenticchie e fagioli, aspetta, va fagioli, con Cicci, aspetta poi quando beverà fava, ci mettiamo la verza, ci mettiamo pezzi e garri, esita, eia, allora c'è data lì, e allora, oiaia, ia rugrido, ia. Quando l'ho fatta? Due giorni fa mi pare che se faccio di da così buona. E a me piace lo stesso di gumbi, adesso d'inverno che inizia il freddo fa dei piaceri. Ho un bel minestrone di verdure, no, a me mi esce bene, anche il mono, ma che io metto anche quelle foglie di allora che dà un tocco, e poi quando posso un ragù, quanto è buono, anche il mono non solo da loro, ma ne poco pure un basilico, ne poco fresco. Sì, è buono lì. Io la Giovanni a due giù, ragù. Gnocchi al ragù ho fatto. Noi invece abbiamo fatto le... No, ravioli quei rotondi, che lì c'erano spinaci e ricotta, ma così buone. E ne ho mangiato mezzo poco, un mezzo chilo di due ce l'ho mangiato. Oh, sta facendo Tony, dove li hai presi i ravioli? A chi no, mi batti, mi chifo, mamma mia. Ma io veramente l'ho preso all'aerospin. E dirò che sono veramente buoni, ho preso quel solo la ricotta oppure quelle rotonde che sono ricotta e spinaci e mi sono trovato sempre bene. Poi non lo so, era credo che non lo so. Ma tu dove le prendi Natalia? E mia moglie li aveva presi, ma erano così cattivi, pucci, gatta, mamma mia. E infatti ti ho chiesto per quello. Io sì mi ripiglio ricotta e spinaci. E lì ma è la cosa dello spin che ci vede per via la parotossi. Io lo prendo sempre là e non ho mai sbagliato. Molte volte abbiamo 3-4 placche e pongo il congelatore, il polsetto. E quando me qualche volta me ne scongelo, le metto in frigo la notte prima, e domani c'è ancora congelate, pongo microonde, scongelo un pochettino e poi via a cucinare. Le tolgo piano piano, le taglio e le metto su lo Scottex e poi la sto bollendo tutto dritto. Così avanno approfitto me. Domani prima delle poneggia vi si riesce a pigliare la linea anche per un gruppo. E da voi mi pare che ando dai lo spin così ne approfitto, mi piglio tre di mortadella e due baguette. No, non lo fare che ti fa male. Vabbè. E mi hanno fatto la battuta perché non fossi io visto un peso a pigliare la maghetta casacchese con la mortadella. E a chi ci sono guidare lo spino non lo posso pure io, zitta zitta. A me da volta con Franco, chiamate Medì, un manzano, ha sbagliato una focaccia rotonda, manna e tre timortelli, tre bocche e mezza, tagliate in due, e a me meglio di mezzo, ogni maniera. E poi viene a mettere qui, Lucia ha detto, ma il fra non vuoi farmi, no, non mangio sempre appetito, ci vai puta, se mi metto mezza guazza. Io che sto via mangiando mezza guazza, guazza con la mortella, io che non abbia stai appetito. Mi ha detto, non di nulla mica, stai scherzando, non dico niente, non ti preoccupare. Andare. E queste cose già le facciamo noi. Quindi, vabbè, qualche voce non è pure lui, qualche voce sì, che sei con me in macchina, andiamo, stai, mangiamo. Mi pongo nel borsello che su buste e duzzo che vaggio, in macchina Mattezzi me la mangio. E io faccio così Mattezzi, parcheggiando, infatti parcheggio sempre da parte verso il mio poche d'ora io, no? Che non mi vede nessuno. Vaggio con il duzzo minore e nel borsellino, la chiusura che c'è a fianco, pino, taglio, ta-ta-ta-ta, pino il muto e mangio. La carta è buona, beccata, caglia la baghetta, il capo la moipa, è sempre due tiri miglio me. E me ti manco non andano. Mi fermo schifo, non ti fermo in tendi, se non ti piglia di giro. Domani la butta concetta, mi piglio la baghetta a gaglia a gaglia. Con due dieci mortadella, mi la imbutto per, mi la mangio alla faccia sua. E poi non mi alza la glicemia, lo sai, Natalia. Mangio la baghetta in tria, non mi alza, guarda, poco poco. Ma tu ti faccio che l'hai come ti la giù? Guarda. Non è grave come, come quell'altra persona. Ehi, già l'ho visto. Non è una bella. Capito. Chi tu razza, come ti mangia una pizza solo, dice che si razza a ristelli. A me quando mangio una pizza non mi sale così come sta dicendo lui. Ma Natalia, ho fatto la prova, mi sono alzato alle 11, mi sono mangiato la glicemia, 112. Ho preso il freezer, mi sono preso un cornetto, mi raggio magnato. Poi all'una e mezzo, due meno un quarto al mattino mi misuro la glicemia, 120, non è che è stata assai, è una cazzata. E infatti, io ci mandano un miraggio misurato e la via 87. Ma io ce l'ho sempre bassa comunque, 112, la giornata 12 a partire per la macchina io, 118. Però giustamente quando mangio un po' di minica che mi piace, ma sa che 150, 160. E vabbè, almeno tutto ho detto, ma domani devo fare qualche cosa, no, non preoccuparti, c'è sede da sola, è fatti. C'è calata. La faccia è buono adesso. Roberto, attenzione alle baguette. Quando dici, quando la sfornano gli anni rospini. Cazzo, ma da gaccia a gaccia, che cosa, boh, non vedo l'ora di arrivare a gaccia e a pagare dai macchina a briglia su da magna. Io pure mi ripigliavo al soundi, in via Giovanni Pasco, lei si è chiuso, cazzo, ma la sorte, l'hanno chiuso col supermercato. E quella la copia che? E su, lì quasi a gaggi, ma stessi, appena ci di dare un bollo, Sì, già lo so, Natali. Purtroppo ha fallito, tutti già arrati. E che ci vuoi fare? Oggi proprio non entra nessuno, siete proprio qui, io vado oggi. Giorgio, la famosa che è entrato, cara dei fantasmi, come te l'hai fatto attaccare? Cara di molti, sì, cosa ne dovevo dire? Sì, non entra nessuno. Mai. Infatti, mi sono cominciato a risiva e vera di tu e Antonio e buh. Stasera, per grazia di Dio, se no manco voi ci sareste stati a intendere il QRM, non vedevo che nessuno a chi ne guarda, hanno giudicato di bene. Siamo io e Roberto, poi tra Antonio, noi siamo da riguardo, così Roberto. Adesso un po', e quindi se mettere a baracchino, fammi da, ma è tra Antonio, poi sei entrato tu. E quindi poi Fabrizio fa il controllo eccetera, però Caglietti che poi chi c'è Massone che dice sempre non mi ma nessuno, se solito che non entra, l'ha giù vinto telefonata a Gianni e non mi ha risposto sia il telefono ufficio che il telefono di casa, e io so vettiglia. E magari non vi sarà stato il telefono, non l'ha inteso l'altro che sul cellulare, magari c'era, perché se lo mette dentro il borsello magari era pure e non l'ha sentito. Ma quello era addormentato o era con le cuffie cantando il karaoke? Ci si vanno i cuffie, non li intendi, no? E allora? Lui quando ci ha messo quell'affare nel braccio, dice, ma quando te lo fai mettere anche tu? Ma io vorrei domandare al dottore, maestro, ma sta scherzando? Ha detto, quello si fa potere su linee. Tu ne fai una solo e se la fai pure. Ha detto, sì, è vero. E allora? Lascia le cose come sono. Non ci avete lo stesso diabete. E infatti l'usurio è diverso. L'usurio è più grave, quello di Gianni. Adesso per cui si mangia la vaschetta di gelato in tribù? Peggio parendo, dopo che hanno tirato a 400 si lamenta. Se dici appena si mangia una pizza, si lascia subito un bel. Ha detto così lui. Io quando mangio la pizza mai mi è salita così. Ma neanche a me, guarda, assolutamente. Io mangiamo un piatto di maccarrone, la verità è un maschio minacciato da 160 e non è di manco un bel, ma è dovuto alzare il picco. No, quasi troppo, è troppo, assolutamente. Sì, perché lui fa dire sempre, ce l'ho 86, ce l'ho sempre fissa così, e grazie, ti fai 4 giovine giù un preso. E allora Robè, quindi, ciao, ci giochiamo a calci. Avvisami, così domani ti accompagno io. Ma come c'è un suono di brezzo, sa? Farò smarrimento, ma fai prima la denuncia e poi lo ripeteremo l'autorizzazione. Ma glielo vengo, ma che sia già vai. Comunque, sempre alle 8, non prima, 8 meno 4. E 8 meno 10. Lo so. Vabbè, mamma com'è, io ho la guida veloce. Hai compreso Natali? Sì, io ho già capito già. Io ci ho anche seduto con te, quindi lo so come guidi. Ma grazie a Dio, Natali, c'è anche il pilota. Quello sì. Ci fa fare patente quasi, non ci ho preso. No, la verità, io ci metto con le balle, io non ho mai avuto incidenti. Là che ci sono cute a me, quello sì. No, c'ho sempre. Ho fatto la visita, quando è? Quest'anno Natali, a Tisa me l'hai fatta fa, per luci. Non ci sono tracce di diabete. Cazzo quanto sono contento. Non capito, no. che mi sei fatto agli occhi? Sì, sì, me l'ha fatto fare il dottor Fancino, diabetologo, la visita agli occhi, perché ti, il diabete ti porta alla cecità, capito? Siccome il mio è un venito 2 venuto dopo i 60 anni, non è così grave, mi ha fatto fare per la sicurezza la vista agli occhi, ma è molto in bocca cosa nel luce, ma ha detto che poi non potevo guidare per almeno una mezz'oretta, infatti mia figlia ha guidato la macchina. Ma ti dirò una cosa, c'è scritto nel foglio, c'è anche la cuffia, non ci sono tracce di diabete negli occhi. Io ho capito, anche a me il fondo degli occhi mi ha controllato l'altra volta, pure a me me la può fare. A me la devo durare a fare, devo fare una visita cardiologica pure, ma quello lo devo fare verso gennaio, devo andare a marzo a fare la visita diabetologica. Devo andare. Però avasso quasi tende ma chi c'ha visita di un chirurgo vascolare, vediamo un po'. Io mi interessa fare soltanto l'eco doppio e la visita cardiologica, basta. Quest'anno è via che finiranno, si finiscono all'inizio della tram, io la gito l'autore, e non c'è mai posto, non è colpa mia. Quindi, se non ce la fai quest'anno a gennaio, e allora. Devo passare anche al dottor Fancillo, e anche mi dirà, io ho la visita a marzo, mi sembra da lui. Però giustamente devo portare le analisi, non li funzionava il computer, e qui ho detto passi un giorno e fra 2 mesi passa giù, e così sto facendo, adesso faccio, mi sta domani, dopo domani, e mi ritiro tutto il foglietto delle analisi. Andrà bene, avanti Roberto. Devo fare la visita oculistica cardiologica e l'oculistica cardiologica e gli esami del sangue, va giudizio. Ma vediamo un po', adesso può intendere a Ghisi. E cerco di prenotarmi per la visita cardiologica e quella oculistica pure. O sai chi mi rompiano i ricatoli, ira. Domani negavo Buruvici di voi, gli dico Buruvici allo butto, così al Marco, mi riprenoteggio e riporto quando li devo fare. E comunque io, ripeto, domani provo a chiamare se ho questa vita di gennaio. Sì, le analisi devo fare del sangue praticamente, c'è tutto, colesterolo, eccetera, eccetera, urina, tutto. E non mi ha dato il foglietto di tutte le analisi devo fare, ma io le faccio per Roberto, Natalia. E anche in chi me lo fate in poco tempo, me. Ando, dopo male che tirassi l'esito, adesso cappuccio, però queste analisi le devo fare 10 giorni prima che devo andare a fare la visita. Non le posso fare adesso, però meglio che ho sempre il prospetto di tutte le visite che devo fare, l'analisi del sangue. Okay. Io si temo. Adesso domani voglio chiamare, sempre con la visita del 15 gennaio, se riesco a farla prima. Se è prima è meglio, se c'è un buco, se c'è via luce. Adesso voglio andare a Cagliari, e vai a ammazzati. A Cagliari, ma io devo fare la visita cardiologica e quella agli occhi. Le analisi del sangue le faccio 10 giorni prima, quello non c'è bisogno. Ma mi ripongo da Lanzi domani e gli dico prima la visita quella vascolare e poi gli dico a cercarmi gli altri. La cosa è meglio che si rivolzo, lo sa che vivo gli addempo me. Ma chi non posso bannuda, non lo so quindi il cazzo di Rugup. Beh, io l'ho sentito che ci ho preso, che il gruppo di Cade stava grattando. Anche in spina vaccinale non vediamo la telefona, una mazza di nevaria. Senta, non mi ti telefonate, ci ho fatto, chi vagogna che no, lascia perdere. E poi la prossima volta vado via Pieppi, posso prima, anziché a telefonanti. Telefonanti per uscire a casa, che non abito a Sassari. E consuma benzina, andà a casa, la batta all'acqua, mi rompere in ballaga. E vabbè. Ui. che ti dice di sia, è una malogna. La grande città di un Covid, poi hanno fatto tutto un casino. Come l'Ips lo stesso qui. Adesso il Covid non c'è più, perché deve, appuntamento, ma prendetevi la luce, voi l'appuntamento vado a finire. Non vi mai nessuno, prima si andava, vedevi anche i viti massoni bussati, chi vi chiamava il numero, ma no, beh, guarda, giù la davanti, c'è l'appuntamento, no, allora vai, ciao, hai capito? Già si è mandato di veggia allo sfascio. Questi qui stanno cercando di fare come in America, io penso che c'è tutto a pagamento. Beh, speriamo che non arriviamo a quello, eh. Mi dice poi se stanno scappando perché pagano di più, il doppio di quello che pagano qui, qua fanno più ore massacranti, là ne fanno di meno e ci pagano più bene. Beh, vabbè, se la biglia della luce il trio. Come va? E allora Robè, tu cosa mi racconti? La varia a pagamento. E io me ne vado a Tenerife e c'è la via dell'Occio Intigante. E vai di Nazare, un amico mio se ne è andato a coso, a Tunisi, ah no, e in Tunisia se ne è andato. Che c'è un amico mio, che lavorava in un comune, era Burugibimi, questo geometro, lavorava in comune e se n'è andato fuori perché dice che ho la pensione, vive da una baboli. Sì, a Tenerife non paghi tutte queste tasse che ti ha pagato qua, è una vergogna, guarda, boh. Adesso a proposito, parlando del comune, eccetera, eccetera, io non l'ho più sentito, più visto neanche compare Alfio, te lo ricordi di una tarì che abitava lì al monte, una traversa, si chiamava Fiori, si chiamava. Ma non mi rammento la Bizzani, ce l'ho presente adesso, chi c'è roba di tanti anni fa? Un mezzo anni fa. Dunque, praticamente, in via Giovanni Pascoli, alla fine, dove c'è quel silenzio di questo animale, eccetera, anzi, chissà via che ve ne concentro, la prima via a sinistra, che c'è anche un bar Longo, c'era lì, di fronte abitava lui. Ah, via Baldetta. No, non è vero, e quel lì c'è la Baldetta, sì, forse hai ragione. Sinistra da là, via Baldetta è così. Sì, compare Alfio abitava lì, io non so, Alberto, come si chiamava, Alberto Fiori, ma non me la metto più in viso, grazie, è un macello. A me, l'analisi di Rusango mi va in baga, io pago e muto, però non è giusto perché ho l'esenzione io, e dici, purtroppo lo Stato non ribaga, e cazzo dobbiamo pagare noi per fare l'analisi di Rusango, ogni volta che fermo la visita diabetologica, non è giusto, no? Allora, Natali, io non pago nessuna visita, però se vado via Roberto per fare tutte le analisi che mi fanno, che me ne fanno 3,70 euro, dipende, 28 centesimi, dipende, cosa devo fare, capito? Però non ho mai sferato le 4 euro, mai, sempre di meno, anch'io ci sono esente, le visite che posso non pago nulla, palucori, o per qualsiasi cosa ho sempre l'esenzione, perché mi hanno portato 99% di validità, quindi non me ne frutto nulla. Ah, a proposito, quando stiamo andando all'ospedale, che non mi hanno fatto entrare, ci vuole il tesserino, io ce l'ho il tesserino, allora posso trovare un buco in macchina, cadè, ecco qua il tesserino, giri le palle, e mi posso entrare a parcheggiare dritto. Il tesserino, cioè il coso degli invalidi, c'hai? Cappa. E io me lo devo fare, ma cosa, non è possibile, ragazzi, non è possibile. E a me me l'ha fatto linea, ma me l'ha fatto permanente. Proprio per il parcheggio, così è. No, non è per il parcheggio, quello ti sia invalido che io presento alla guardia giurata che c'è all'ingresso dell'ospedale, lì annunziata dietro. Non mi fate entrare, ma ti sei io, però ce l'ho. E lì per lì poi ci ho pensato e ho fatto, cazzo, era già a casa, il mio bambino che macchina. E allora? Te l'ha fatto l'INAM a te? Cappa. E cosa si deve fare per farti questo tesserino? Vado pure io, ma cosa, non è possibile? Ma io ho tutti i documenti dell'ospedale, li ho portato. Sia quello dell'ospedale, del cardiologo e tutto quanto quello che so io, capito? E con quello abbiamo fatto il tesserino, mi hanno dato l'invalidità proprio. E a io non sono invalido. Io ho l'invalidità al 75%. Sì, ma hai un documento dove dici che tu sei invalido? Lo verbale maggio di invalidità. E porta quello lì allora, scusa. Ma anche il caffè te lo fammi, fa la fotografia pure. Il coso degli invalidi, il tesserino degli invalidi, mi. E ti arrivo a casa. Io vedi, non ho fatto quello per sosta per invalidi, perché volevo 60 euro all'anno, vai a mazza di no, te ne do, va a fa culo. E allora automaticamente non l'ho fatto, solo quello, non me ne frega. E anche io mi faccio quello. Adesso intanto a gennaio devo andare per farmi l'ISE al CAF, gli porto e gli devo portare per forza il verbale di invalidità. Li fotografirà giù, li do tutto al GAF e mi va di tutti e mi arriverà a casa il tesserino degli invalidi dall'Inps. Ma da vivo? Sì, a me me l'ha dato lì in via Tempio, ma nel 2015 me l'ho dato, penso a poco 2016, una fare del genere. Sì, forse era 2015. Vabbè, allora, buonasera. E Franco lì. Allora, com'è? Mi ascoltate bene, sì? Sì, aspetta che ti passo a Roberto, se lo senti. Roberto, vai per Franco. Lunghi. Ma forse mi sente un po' basso, ammetto. Ciao Roberto, buonasera. Santiago 9, 59 qua da me. Non so se tu mi ascolti, boh. Sì, benissimo, molto bene. E qui è zona monte, è ovvio che... hai visto quanto arrivi, Roberto? 7 con 9, ne do 5, non si può di più. C'è un attimino di macchina, piccolino mio, ho fatto. 59 qua, numerati a 9,5. Sì, lo ascolto bene. A me mi ha scusato bene. Poco fa ero dalla macchina, stavo provando del Midland, a ver come stava andando. Ottimo, stava arrivando qua. Foto scala. Quello spara forte, modificato. Vabbè, no, mi stavo facendo dei laboretti, capito? Che mi sono attaccato giù la colonnina, quindi l'ho dovuto aprire e assaldargliela. Va bene che Luca ho una radio, va, sì. Sì, ottimo, sì, amplificato 5, super. Ma ragazzi, vai Natali. Tony, è uscita da poco questa legge di questo tesserino degli invalidi, che c'hai tante agevolazioni. E c'è anche la fotografia e tutto in questo tesserino qua. Me lo faccio fare dal cazzo. Alla massa. Cazzo, sono cubagendi, ogni cosa sono cubagendi. No, allora, a me mi ha dato un foglietto bianco e c'è scritto tutto, capito? Perché te si dice non le fanno più quando me l'ha fatto a me e non ce n'era. E c'è il nome, cognome mio, indirizzo tutto quanto. E tra l'altro c'è tutto quello che io posso fare, le visite, tutto, dalla A alla Z. Ho due codici praticamente io, che sono esente, capito? E io ho il C03 e il 001. Ma io ho qua per il cuore che non mi ricordo più. E C003 o 03 o non me la metto più. C03 vai lì, se sei invalido. E più 001 per il cuore. E sarà così. Va bene, infatti la dottoressa ha dato tutto quanto, quando mi fa le ricette c'è scritto esenzione, c'è scritto tutto. Va bene, meno. Okay. E allora Francolino? E quando, Com'è? Com'è? Io mi ha trovato Roberto, che abita vicino a me, da Sant'Antenna, altri 2 metri, più alta, ma va è più bella. Va più bella, 9,25 qua, di uscio. E Roberto sta facendo con l'Atenino. Scappa. Gli ho messo l'arrigo, però è a massa, va male, o fa. Cazzo, non funziona se arrigo, ma il cambio, boh. Non c'è venendo da Sant'Enni, era pazzini. No, io cazzo, si quattro avevo pagato il suo. Di Sant'Enni, ammazza, mi ne va, raga. Con l'antenna non mi piace nulla, sarà un dirigente, sarà avanti, no, va bene, per quella ringo è meglio quella che c'è tu. Aggiungi anche del zero, ne vediamo 2 di antenne, ma... Con l'antenna vanno bene, solo che bisogna fare un lavoro con le antenne. fra io, l'ho scesa e non c'era niente di acqua, nulla. Caso strano, c'è il piede di acqua. Era tutta piena d'acqua. E poi c'è un altro problema con l'antenna. Dove c'è la carica, se tu la smonti, c'è un filo sottile, sottile, sottile. Direi di modificare il filo della carica, perché se metti qualcosa, se dai più di quel tanto di watt, vai in stazionaria allucinante. Ma comunque, adesso io ce l'ho già per un po' di anni e va troppo bene. Avanti, Natali. Sì, è così. Quelle antenne sono... ce l'aveva Franco, quella lì. Se c'è quella lì, c'è proprio quel problema della carica, c'è il filo, della carica di sezione fine, fine, fine. La V non sta dicendo. Sì, quella che sta dicendo Franco. Ma c'è una portante. Io non mi intendo lui. Allora, quella antenna lì, se lui che funziona bene, devi smontarla e sostituire quel pezzo di filo che c'è, glielo fai della stessa lunghezza, glielo saldi e risolto il problema. E quell'antenna va benissimo. Ma la ringo? No, quella che c'è, quella c'è lui è uguale. Ma la mia sta andando bene, non me ne frega di fare questo lavoro qua. La ringo, sono pensato per darla a Roberto. Pago, se non si può nulla, Sant'Enna. Toni, basta, piglio la cosa, piglio la manto qua. Una cosa, ti prendi una cosa, ti prendi una... una Game Master che vanno bene, robè. E ci da voi una sanità, si rigrima. Capito vai fra? Cos'è il discorso? Che vuole piazzata bene la Game Master? Come l'abbiamo piazzata noi? Io mi ha disegnato di tutti i cosi, Urbenarello, a misura, bisogna avvarli, se no non reggi, Che ho pensato io è una bomba, Sì, è un grido, è signora mia, cazzo vira l'antenna in orizzontale, cazzo, e rubare un dritto dritto, gatta, e messo tu pure l'antenna di TV da me, il giorno che ha fatto quel vento. Non le fa niente, se rispetti le misure giuste, con l'antenna regge un bel, perché è flette ma non spezza. Il problema è che si spezza quando non vengono rispettate le misure delle giunzioni degli elementi, allora ti si spezza, capito? Perché secondo le elementi indebolisci dove c'è lo spacco e si spacca. Sì, già lo so. Ce l'ha Gianfranco, un amico, lo stesso, e non è né rinforzata né nulla, come la mia. E ce l'ha tanti anni. Dice lo vento, mi ha pigiato Rubaru, però l'antenna non l'ha fatto nulla. Ma vai da cantare a volte il suo vento, mi ha pigiato Rubaru. Lo so, perché vuol dire che era tubo d'acqua. E intanto gliel'ha piegato lo stesso. Gliel'ha. Però all'antenna non gli ha fatto nulla. Lo so, perché è tipo una canna da pesca, Infatti, bisogna ripetere i misuri e boh. Carusai non vi sciate negli sigrotanari, nei contenitori onde va giù, chi a chi ti sono più minori, chi c'è nanna, è da 3 e mezzo, chi si aggiomiglia a due io. Sono più grandi di quel contenitore, non ci stanno dentro. Se devi comprare quella borsetta famosa, io lo so dove la vendono, e costa molto di meno da dove c'è, dove l'abbiamo vista noi. Costa 23 euro, ma è bella perché c'ha tutti i contenitori, ci metti tutto a tanare, capito? Ti rabbia una tracolla e non c'è questa borsa in mano. E infatti, gira meraviglio. Io me la prendo quella lì, perché non è utile, capito? A parte che vedi il colore che devi mettere, di quella maniera di rubare la borsa, cavarmi il contenitore, di lascia perdere. È un travaglio, Invece in una maniera te la metti a tracolla e ti usi il colore che vuoi. Perché non è che devi usare un colore, devi sempre provare, capito? In base al colore, poi se vedi che pisca quel colore, usi quello. Se poi vedi che magari la sera mangia con un blu, qualcuno c'è in brunile, mangia con rosso, capito? Sì, Arzogu. Io ho quelle Yatsui e quelle Yamashita, sono buone ici. E poi gli fa un sistema che ti ho detto, che io l'ho visto in un video, sotto la tottanara ci mette un'ancoretta di quelle piccole piccole, capito? E tu vedrai le scelte e non ci neanche le perdi. Sì, a chi si agganciano all'ancoretta e non ce ne buone fuggi, già lo so. E quelle ancorette piccole non c'ho, bisogna che me le compri. Ma lo sa dove va piazzata l'ancoretta? Sotto il cestello. Bravo, sotto il cestello la devi piazzare. In modo che lei quando arriva tira, cosa succede? L'assetto è facile da perdere, perché l'assettiamo là subito. Invece con l'ancoretta, una volta che si aggancia, ha perso la guerra. Sì, infatti. Se si aggancia l'ancoretta è fuggita. Non è fatto così. Vai tu lì, poi fa girare per Roberto. Sì, e bisogna andare su quel fa più freddo, sipit, totani, calamari, tutto che si vede, prendiamo tutto che si vede la mangiare, lo vedi? Avanti Roberto. E anch'io troppo chiudo perché mi sono chiamato dentro, io ero sdraiato qua nel letto e forse volevo tirare la pizza, poi vediamo. Vabbè dai, buon proseguo, ciao Natali, ciao Franco, chiami pure al telefono, c'è problema, vabbè. Ok, corretta con la parte mia, ciao a tutti. Ciao a tutti quanti, buon proseguimento. Ciao Roberto, ciao Tonino, buona cena, buon carica, buon tutto e ce la riascolta alle prossime. Vai Natali, sì, in effetti è così. Sì, infatti. Ciao Tonino, ciao Roberto. Grazie per le quattro chiacchiere, ci sentiamo alle prossime, là. Anche me le passo in quelle cifra perché devo cenare anche io. Ci sentiamo alle prossime, Fra. Buon proseguo, buon tutto. Sì, ciao Natali, dai, anche io chiudo. Saluta in casa, buon corretti, buon tutto, buon carica e ce la riascoltare il prossimo. Anche io sto chiudendo, saluto eventuale se dei problemi che sono in ascolto, per me corretti, ciao a tutti. Ciao.